riguardo al profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. Chi è il profeta Muhammad? Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, è l'ultimo dei profeti e degli apostoli inviati messaggeri di Allah, l'Altissimo, per cui nel sublime Corano Allah lo definisce Khatamun Nabiyyin, che significa sigillo dei profeti, sicché con lui si chiude la missione profetica, essendo egli il portatore del sublime Corano, che è l'immutabile e inalterabile parola di Allah medesimo, a valere come regola di vita e dottrina di verità fino alla fine del mondo. Cosa significa Muhammad? Muhammad significa colui che spessissimamente viene lodato. Dove è nato e ha vissuto il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria? Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, è nato nella città della Mecca, che si trova in quella regione della penisola araba che si chiama Al-Hijaz, dove egli ha vissuto tutta la vita. Quando è nato il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria? Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, è nato nell'anno 53 prima dell'Egira, vale a dire nell'anno 569 dell'era volgare. Lo sai come fu ricordato l'anno in cui nacque il profeta nella tradizione araba preislamica? Fu ricordato come l'anno dell'elefante, perché in quell'anno gli abissini, che avevano fondato un vicereame nello Yemen, dopo aver progettato la distruzione della nobile Kaaba, il santuario a forma di cubo costruito dal profeta Ibrahim e da suo figlio, su ambedue la pace, invasero lo Hijaz, occuparono la Mecca, ma non poterono portare a termine il loro progetto perché Allah distrusse l'armata abissina e l'elefante della spedizione con un evento miracoloso. Quale fu l'evento miracoloso che distrusse l'armata abissina? Fu un bombardamento di pietre effettuato da uccelli volanti a stormi successivi che ridussero in poltiglia l'armata abissina. L'evento è ricordato nella sura intitolata L'elefante nel sublime Corano. Cosa sai dire della genealogia del profeta, che Dio lo benedica e l'abbia in gloria? Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, era discendente del profeta Ibrahim nel ramo della sua discendenza da parte del figlio Ismail, antenato degli arabi. Il profeta Ibrahim, su lui la pace, era discendente del figlio del profeta Noè, di nome Sem, il capostipite della stirpe semitica. Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, nella discendenza ismaelitica del profeta Ibrahim, apparteneva alla famiglia dei discendenti di Hashem, gli Hashemiti, appartenenti alla tribù dei Quraysh, Quraysciti. Era figlio postumo di Abdullah, figlio di Abdul Muttalib, figlio di Hashem, e sua madre si chiamava Amina. Cosa sai dell'infanzia e della fanciullezza del profeta, che Dio lo benedica e l'abbia in gloria? Fu dato a balia a una beduina di nome Halima, appartenente a una tribù del deserto vicino alla Mecca, tribù chiamata la tribù dei figli di Sa'ad. A 6 anni rimase orfano della mamma e fu accolto in casa del nonno Abdul Muttalib. Alla morte del nonno, quando aveva 8 anni, fu accolto nella casa dello zio paterno Abu Talib. A 12 anni accompagnò lo zio, che commerciava, nella capitale della regione siriana dell'impero bizantino, e in questo viaggio un monaco di nome Bahira riconobbe in lui il profeta universale annunciato dalle sacre scritture. Chi è Khadija? Khadija fu la prima moglie del profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, che egli sposò quando lui aveva 25 anni. Da lei, che aveva 15 anni più di lui, il profeta ebbe 7 figli, 3 maschi, Qasim, per cui venne soprannominato Abul Qasim, Tayyib e Taher, 4 figlie, Ruqayya, Zainab, Kulthum, Fatima. Ibrahim, figlio di Maria l'Egizia, morì in tenera età in un giorno in cui ci fu un'eclissi di sole. Dove, quando e come e a che età il profeta ricevette la prima rivelazione e l'investitura della missione profetica? Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, ricevette la prima rivelazione e l'investitura della missione profetica in una grotta del monte Hira, una montagna nei pressi della Mecca, dove era in ritiro spirituale in una delle ultime notti dispari del mese di Ramadan. all'età di 40 anni, anno 609 dell'era volgare, a opera dell'angelo Gibril, che rivelò la prima parte della sura del grumo di sangue al-Alaq, che inizia con l'imperativo Iqra, che significa recita. Per quanto tempo il profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, svolse la sua missione nella città della Mecca? L'attività missionaria del profeta si svolse alla Mecca per 13 anni. Per 3 anni la predicazione fu a livello di conoscenze personali. Il terzo anno ricevette l'ordine di iniziare a svolgere il suo ministero in pubblico, che si svolse alla Mecca per altri 10 anni, cioè fino all'egira dalla Mecca a Yathrib nell'anno 622. Vi furono eventi memorabili in questi 10 anni: il miracolo della luna spezzata nella notte del plenilunio del mese di Rajab dell'anno 5 prima dell'egira, la persecuzione della classe dirigente meccana contro il profeta e i suoi seguaci, la morte di Khadija e dello zio Abu Talib, che lo sostenevano nell'esercizio della sua missione profetica, l'insuccesso di Taif, dove il profeta si era recato per invitare all'Islam i Takefiti, la predica ai Jin, il viaggio notturno ad Al-Quds, Gerusalemme, e l'assunzione alla presenza di Allah nella notte del 27 del mese di Rajab dell'anno prima dell'Egira. Cosa indica la parola Egira? La parola Egira indica il trasferimento della sede di esercizio della missione apostolico-profetica di Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, dalla Mecca a Yathrib, un centro abitato ad alcune centinaia di chilometri a nord della Mecca. In che anno avvenne l'Egira? L'Egira avvenne nell'anno 622 dell'era volgare, il 53esimo di vita del profeta e il 13esimo dall'inizio della rivelazione coranica. Cosa fece il profeta a Yathrib? A Yathrib, che assunse il nome di città del profeta, Madina Tunnabi, detta in breve Medina, il profeta diede inizio alla costruzione dello Stato islamocratico, cioè di una comunità sociopolitica islamica, cioè una comunità governata dalla legge di Allah e dai precetti del profeta. Quali furono gli eventi storici significativi dei primi anni dell'Islam fino alla morte del profeta? Gli eventi storici significativi dei primi anni dell'Islam fino alla morte del profeta, che avvenne quando il profeta aveva 63 anni, nell'anno decimo dell'Egira, corrispondente al 632 dell'era volgare, furono la battaglia di Badr, la battaglia del monte Uhud, l'assedio di Medina, la liberazione della Kaaba dal dominio idolatrico politeistico, il pellegrinaggio dell'addio. Cosa sai dirmi della battaglia di Badr? La battaglia di Badr si svolse il 17 del mese di Ramadan dell'anno secondo dell'Egira, 624, e si chiama così dal nome della località, un'oasi sulla carovaniera che unisce la Mecca alla Siria, dove fu combattuta e vinta dai musulmani, che in numero di 313 sconfissero l'armata meccana forte di 1000 uomini che si era messa in campagna militare per annientare l'Islam. Cosa sai dirmi della battaglia di Uhud? La battaglia di Uhud si svolse nell'anno terzo dell'Egira, 625 dell'era volgare, e si chiama così dal nome della località, un monte a pochi chilometri da Medina, dove fu combattuta e vinta dai musulmani, che in numero di 1000 sconfissero l'armata meccana forte di 3000 uomini che si era messa in campagna militare per vendicare l'onta subita a Badr l'anno prima e per annientare l'Islam. La forza d'invasione, a causa di una disobbedienza agli ordini di battaglia dati dal profeta, realizzò un iniziale successo, ma venne poi messa in fuga dal contrattacco islamico. Cosa sai dirmi della battaglia del Fossato? La battaglia del Fossato è il nome con cui è passata alla storia l'assedio di Medina, a cui la città venne sottoposta da una coalizione giudaico-meccano-beduina nell'anno quinto dell'Egira, 627, e si chiama così dal fossato scavato per realizzare un apprestamento difensivo atto a favorire la difesa e a impedire l'occupazione della città da parte delle soverchianti forze messe in campo dal nemico. L'esercito confederato, forte di 10.000 uomini, pose l'assedio alla città e fece degli attacchi sporadici che vennero respinti dagli assediati, sperando che essi uscissero per una battaglia campale. Ma ciò non avvenne. Dopo alcuni mesi di assedio infruttuoso, la coalizione si sciolse anche per effetto di un forte vento sabbioso che rendeva invivibili le tende e difficile la respirazione di uomini e di animali da guerra. In che anno dell'Egira avvenne la liberazione della Mecca dal dominio idolatrico? La liberazione della Mecca dal dominio idolatrico avvenne l'anno ottavo dell'Egira, il giorno 20 del mese di Ramadan. In che anno morì il profeta? Il profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, morì a Medina nell'anno 10 dell'Egira, nel giorno 12 del mese di Rabi I, a 63 anni, tre mesi dopo aver eseguito i riti del pellegrinaggio alla Mecca, durante il quale scese la rivelazione in cui Allah dichiara di aver ultimato la rivelazione del codice di vita, rendendolo così completa la sua misericordia sugli uomini e gradendo da parte loro come religione l'Islam. Qual è il miracolo con cui è stata confermata da Allah la missione apostolico-profetica di Muhammad, che Allah lo benedica e abbia in gloria? Il miracolo con cui è stata confermata da Allah l'Altissimo la missione apostolico-profeta di Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, è il sublime Corano, un testo di perfezione letteraria inimitabile sotto tutti i profili della scienza della comunicazione, realizzato da Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, per mezzo di un illetterato che non sapeva leggere e non sapeva scrivere, per cui Allah lo definisce nel Corano An-Nabiyyul Ummi, che significa il profeta illetterato, testo nel quale sono incastonati brani i cui significati letterali sono anticipazioni inconfutabili di risultati recentemente acquisiti dalla ricerca scientifica in diversi campi di studio della realtà. Un altro aspetto assolutamente soprannaturale del Corano è la presenza di una struttura numerologico-alfabetica fondata sul numero 19, che è il numero delle lettere dell'alfabeto arabo da cui è formata la prima aya del Corano, in relazione a sigle iniziali con cui si aprono alcune sure, le cui lettere singolarmente e nel loro complesso sono presenti nei testi in un numero multiplo di 19.